Living in the USA, Steve Miller Band. È l'America, terra di opportunità, the rock and roll, di molte delle cose che più ci piacciono. Attenti però a dove andrete. Ho letto di recente un'intervista a Marion Barry, sindaco di Washington DC, dove dichiarava con orgoglio: a parte gli omicidi, Washington DC abbiamo il più basso tasso di criminalità. Ah beh, non mi rubano il portafoglio ma mi tagliano la gola, così muoio ricco. Andiamo via di rock and roll, che è meglio, e lo facciamo con Creedence Clearwater Revival. Baby. Stevie Winwood, all'Early Bird Special. Oh ragazzi, potete tranquillamente entrare in contatto con il vecchio Chuck Bird, naturalmente digitando sulla tastiera del vostro personal computer bird@radiorockfm.com per raccontarvi e per raccontarmi le vostre storie di rock and roll. Non che sto per entrare in riserva di baggianate, anzi ne ho una carina sul vecchio Tom Waits. Ve la racconto dopo un classico di Carlos Santana. Carlos Santana, una volta solo un virtuoso della chitarra, ora riconosciuto progenitore della world music. Ma non è del simpatico messicano che vi voglio parlare, ma di Tom Waits, uno dei personaggi più bizzarri e geniali che la musica ci ha fatto dono. Un talento enorme, capace di scrivere canzoni in grado di spezzare il cuore a un torturatore di Abu Ghraib o di inventare suoni nuovi e misteriosi a commento di canzoni che sembrano scritte in un tempo lontanissimo in una terra sconosciuta. Tom Waits è uno di quegli artisti che ama gli strumenti inusuali, che utilizza oggetti non considerati strumenti come fossero strumenti. E se senti uno dei dischi suoi, il suono di un martello che picchia su di un chiodo, potete scommetterci che è un martello che picchia su di un chiodo. Una volta sentì uno dei musicisti che suonava con lui affermare che se Tom Waits chiede un Fender del 58, non sai mai se intende una chitarra o un parafango di una macchina del 1958, visto che in inglese Fender significa anche parafango. Beh, una volta ha confessato che i suoi dischi li registra in uno studio non isolato dall'esterno. Significa che se stai registrando in uno studio che è vicino a un aeroporto o una stazione, beh, se ascolti bene le canzoni, nel sottofondo ci sentirai aerei in partenza e treni in arrivo. Tom Waits mi disse che anche i leggendari Sun Studios di Memphis, dove Elvis Presley registrò i suoi primi successi, non erano isolati e che spesso, in sottofondo alle canzoni, si sente il rumore di un camion che passa. E a questo punto mi sembra doveroso ascoltarci il vecchio Tom. Lo troviamo a gironzolare attorno a San Christopher. Tom Waits sarà per sempre gradito ospite qui all'Early Bird Special. Una volta lui faceva colazione con un bicchiere di bourbon, adesso si è messo un po' a posto, ma rimane comunque sempre un nostro idolo. Oh ragazzi, a proposito di colazione, l'Early Bird Special si chiude qui. Vi lascio però nelle ottime mani di un paio di cuochi che cucineranno per voi uno splendido pane, burro e rock and roll. Sto parlando di DJ Ariele e Freak Anthony. Per Chuck Bird è tutto. Vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto domani mattina, puntuali, dalle 6 alle 7 con una nuova puntata di Early Bird Special. Aloha!